avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau. Questa mattina la domanda che ci facciamo e che vi giriamo naturalmente, alla quale potrete aiutarci a rispondere, ammesso che esista una risposta, è dove sia finita la ragazza dalla porta accanto. Io non so chi si sia inventato questo termine, probabilmente è stato il grande patron Mirigliani, la mummia che presiede ancora il concorso di Miss Italia, la grande rassegna delle belle del paese, che dovrebbero rappresentare la ragazza della porta accanto. Io non so, forse ai tempi di Mirigliani nelle porte accanto c'erano ragazze, nelle mie porte accanto ci sono soltanto anziani, ma evidentemente c'è stato un momento in cui nel paese la gente occhieggiava la porta del vicino e vedeva ragazze. E quindi si pensò di fare una rassegna che rappresentasse il fiore della florescenza femminile del paese. E nacque Miss Italia. Miss Italia ai suoi albori rappresentava probabilmente uno spaccato trasversale delle diversità antropologiche, anche fisiche, del nostro paese. Diversità quanto varietà, c'erano ragazze di tutti i tipi, di tutte le fattezze, di tutte le forme, con tutti i lineamenti, che segnavano fortemente la loro provenienza regionale. Poi venne l'omologazione del gusto estetico, anzi l'artificiale composizione del gusto estetico. Le Miss Italia erano tutte uguali. Come dalla fabbrica di Barbie uscivano ragazze fatte tutte alla stessa maniera. Impossibile collocarle in qualche maniera in una area geografica che determina, naturalmente, senza ricorrere all'ombrosismi di maniera, anche le fattezze fisiche. Ogni essere umano è in parte corroborato, modificato, condizionato dal suo habitat, dalle abitudini stratificate nella sua famiglia. Insomma, noi umbri abbiamo una mascella prominente, le venete hanno spesso dei grossi occhi azzurri, le sarde hanno uno sguardo penetrante. Adesso non so, sto dicendo a caso. Beh, da quando le Miss Italia divennero tutte uguali, venne il dilemma di come differenziarle, come dimostrare che appartenessero in realtà alla genia delle ragazze alla porta accanto, visto che nessuno alla porta accanto aveva qualcosa di simile. Si cominciò a lavorare sulla virtù delle Miss Italia, quindi le Miss Italia dovevano non rappresentarsi in maniera scollacciata. C'è stata infatti una falcidia nell'ultimo concorso di Miss Italia, quello ancora di cui dobbiamo vedere l'apoteosi, in cui varie ragazze sono state escluse. Via via nel corso di queste ultime settimane abbiamo avuto ragazze che sono state cacciate dal concorso di Miss Italia perché avevano delle foto scollacciate in rete. Varie Miss hanno dovuto difendersi, ma come, io no, si vedeva soltanto le mutande, solo un pezzetto, era una foto artistica, ce n'era una, gambe larghe, sulla scalinata, con una bella incollatura in primo piano, era un nudo, era una foto artistica. Detto questo, si lavora sulla virtù, quindi la ragazza la porta accanto, una ragazza virtuosa. Poi improvvisamente le cronache ci riportano crudamente un fatto che dimostra che la ragazza la porta accanto è in realtà molto diversa rispetto allo stereotipo che siamo fatti. Un episodio di cui cogliamo l'aspetto delicato, siamo partecipi del dolore delle persone direttamente interessate, familiari, amici e conoscenti. Poi non possiamo fare a meno di notare l'eco che c'è stata sui quotidiani, continua ad esserci, dei telegiornali, rispetto a un fatto di cronaca nera accaduto due sere fa a Roma. È stata trovata impiccata in un garage una ragazza di 24 anni, giovane studentessa, spensierata, di ottima famiglia, cattolica lei, cattolica la madre, e praticante, via dicendo, che faceva un gioco erotico estremo assieme a un'amica e un altro conoscente che è stato arrestato per omicidio. Si erano appese a un tubo dell'acqua in un garage tristissimo, facevano una sorta di altalena erotica simulando lo strangolamento, una tecnica sessuale estrema che fa sì che limitando la facoltà di respirare accada un processo di ossigenazione del sangue, adesso non so bene, per cui pare che ci sia un inimmaginabile piacere sessuale. Quella volta è andata male, in questo gioco di altalena di impiccate una c'è rimasta secca e tutti si domandano come mai, cosa succede, cosa accade ai nostri giovani. Beh, questa mattina proprio questo è la domanda che faccio: dov'è la ragazza la porta accanto, divisa fra due universi immaginari altrettanto improbabili, altrettanto da verificare e altrettanto presenti. La ragazza la porta accanto tra Miss e Mistress. 800 24 0024. Allora, le 60 ragazze ci sono, giuria tecnica questa sera, giuria di spettacolo domani sera, il televoto funziona perfettamente, dai che ci siamo. Buonasera a tutti e bentornati a Miss Italia. Ma qui non c'è nessuno. No, hai sbagliato! Non è più qui! Tanto per farvi entrare nei due aspetti, nei due estremi di questa rappresentazione secondo noi inesistente. Non esiste la ragazza alla porta accanto, non è mai esistita, è stata un'allucinazione onirica su cui il nostro paese ha creato la più zuccherosa inconsistenza e illusoria rassegna della femminilità italiana, che nulla ha mai rappresentato di quello che in realtà sia il cammino evolutivo delle donne in Italia. Questo è Fabrizio Frizzi, anche lui presto entrerà nella categoria dei mummificati, che fa lo spaesato perché è cambiata la location di Miss Italia. Sai che problema, il mondo starà in ansia per vedere la nuova collocazione. Frizzi rappresenta la ragazza alla porta accanto, la Miss Italia, le ragazzine carine con le mamme accanto, con i loro manager accanto, un papà a casa naturalmente perché hanno avuto difficoltà a uscire date le loro pesantezze e via dicendo. E l'altro punto della vicenda, la ragazza di ottima famiglia, figlia dell'Azione Cattolica, trovata appesa in un gioco erotico. Soter Moulet, romano, 42enne, ingegnere, nella notte tra venerdì e sabato era nel garage dell'Agenzia delle Entrate di Roma, dove Paola, 24 anni, e Federica, 23, avevano deciso di praticare lo shibari, un'antica tecnica giapponese che provocherebbe intense emozioni. Un mondo di corde, fruste, lo stesso chiamava l'ingegnere, e che è costata la vita a una ragazza di 24 anni, studentessa di Lecce, iscritta alla Sapienza, che abitava a Fidene, morta nel garage dell'Agenzia delle Entrate in via di Sette Bagni a Roma, dopo che Moulet l'aveva legata a un'altra ragazza giovanissima che lavora lì come usciere. Sono stato sempre attentissimo alla sicurezza, ho seguito dei corsi, non so come sia potuto accadere. 800 24 0024. Fate parte della schiera degli indignati, degli illusi o dei disillusi. Anche voi avete cercato l'idea della ragazza alla porta accanto, la cercavate da ragazzi, l'avete cercata da adulti, ancora in età matura pensate di avere accanto la ragazza alla porta accanto. Esiste realmente la ragazza alla porta accanto? Carlo, buongiorno. Ciao Gianluca, sono il pompiere precario che ogni tanto ti telefona. Ah beh, sei esperto in ragazza alla porta accanto, immagino. Sì, come dicevo alle ragazze del centralino, c'è stata una ragazza alla porta accanto, una ragazza molto per il bene, che è stata... molto diciamo, per bene, hai detto? Penso molto per bene. E per male come sarebbe? No, non te lo dico a caso, perché voglio capire, perché la ragazza porta accanto per bene, vuol dire... Per bene, famiglia, modello cattolico, io mi ricordo che andavano in parrocchia e io per le mie origini non ci andavo, per cui mi identificavo con questa immagine, comunque famiglia di matrice per bene, era il fulcro delle mie fantasie, insomma, da adolescente. Cioè, no? Volevi tu trasformarla in ragazza per male, questo era il tuo gioco? Ma sì, o trasformarmi io, essere iniziato al mondo di quella che era la maturità sessuale, magari ecco, preso nelle simpatie, nelle grazie di questa ragazza, non mi sarebbe dispiaciuto, devo dire. E quindi com'è andata a finire? Andata a finire che siamo cresciuti parallelamente, pur essendo io vicini di casa dello stesso pianerottolo, tra l'altro, però ecco, non c'è stato mai. Tu sei diventato pompiere, lei cosa è diventata? Pompiere, sai bene, no. Sì, vai, precario, per il momento. E lei precariamente cosa fa? Lei è diventata mamma, si è laureata in sociologia, ma non ha mai pensato. Comunque ha realizzato il tuo sogno, la tua allucinazione onirica di ragazza alla porta accanto. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Vediamo cosa ha da aggiungere lei rispetto a quello che dice il suo collega in quanto ascoltatore su questa immagine la ragazza porta accanto. Secondo me è una trappola pericolosissima nel classificare le persone. Assolutamente sì, io le faccio l'esempio di questa ragazza che ha perso la vita. Sì, l'ho presa solo come, non voglio oggi accodarmi alla canea che continua a inzuppare il pane in questa triste storia, però è un esempio che il fatto che tutti siano caduti dalle nuvole pensando come una ragazza di buona famiglia fa queste cose. Bisogna capire, queste cose in Italia le fanno un po' tutti. Il fatto che oggi in rete ci sia una diffusione, una contaminazione di usi, di curiosità, di attitudini a fare cose fuori dalle norme, fa sì che poi si scopra e si veda, si trovino le foto, si capisca il movimento. Prego, assolutamente Massimo. Sì, e infatti è proprio su questo che volevo fare riferimento io, in quanto questa ragazza faceva parte della stessa community online che tratta tematiche sadomaso, della quale faccio parte io, e che adesso viene scoperta come se fosse chissà quale perversione, quando in realtà ci sono moltissime persone che aderiscono a questo tipo di movimenti e non c'è nulla di male in questo, solo che adesso siamo visti un po' come i, chiamiamoli così, i perversi, quando in realtà c'è molta molta più gente che pratica questo tipo di giochi. Allora Basso, vediamo se con tranquillità e senza creare problemi a nessuno riesce a farmi un quadro. Quello che ho notato molto in questi giorni è proprio lo sconcerto di scoprire che l'uso fantasioso delle pratiche sessuali, che sono chiamate estreme, non sia solo retaggio di una comunità di oscuri depravati o maniaci, ma ci siano signore e signori di ottima famiglia. Io qualche anno fa feci proprio un'inchiesta su dei corsi di bondage a Roma. Andai e trovai tranquilli impiegati inappuntabili massaie, signore vestite con la borsettina e con le scarpette con la fibbietta di Gucci, tranquillissime, che stanno lì intente a fare nodi, a studiare le gacci, a insalamare i mariti, perché questo dava loro gusto. È un loro problema loro, cioè non entro in merito. L'incidente di Roma è stato un incidente, ma gli incidenti accadono in ogni attività, la gente si uccide anche con il motorino, anche facendo cose molto più innocue. Mi spieghi esattamente qual è il rapporto fra normalità e pratica estrema, normalità di comportamenti esteriori? Ma cosa vuole? Molto spesso lei ha definito questi oscuri perversi, cioè in realtà... Ho definito, ho detto la definizione comune è questa, ho detto. Sì, no, ma in effetti è la stessa che viene un po' indicata anche dai giornali, nel senso che siamo visti un po', ripeto, come dei perversi diabolici o chissà cose. In realtà... direi che i perversi diabolici oscuri, o come comunque vogliamo chiamarli, sono l'assoluta minoranza nell'ambito di queste community, che sono per lo più formate da gente normalissima che trova una modalità diversa di relazionarsi con secondo schemi diversi e procurandosi piacere in maniera diversa da quello che viene universalmente riconosciuto come tra virgolette normale. E su questo siamo d'accordo, certo, purché non si facciano male, non si facciano ferite o lesioni terrificanti, uno può fare quello che vuole. Quando si entra nel gioco che provoca lesioni, secondo me, però non vorrei che questo sia l'argomento. L'argomento è la ragazza dalla porta accanto. Quante ragazze dalla porta accanto ha visto giocare con i legacci, visto che questo è l'argomento di oggi? Moltissime, moltissime, perché viviamo in un mondo in cui c'è poco da scoprire, nel senso che ormai c'è talmente una vastità di informazione, di libertà anche se vogliamo, che molto spesso, e succede più volte di quanto lei possa immaginare, la cosiddetta ragazza dalla porta accanto si cala in questi ruoli di dom, di mistress, di slave, di quello che è, proprio per scoprire qualcosa di nuovo. È una forma di evasione anche dalla normalità. Va bene, Massimo, grazie del suo sincero contributo che ci aiuta a comprendere meglio quanto poi noi siamo già convinti, se non avremmo fatto questa missione. Vorremmo questa mattina osservare sull'irrealtà della ragazza alla porta accanto. Parola d'ordine per la passerella 2011 è eleganza e moderazione. E allora, giusto per dare l'esempio, la prima squalifica a causa nudo su internet. Vittima la fanciulla veneta Alice Bellotto, aveva già in pugno l'ammissione alle prefinali nazionali, ma poi questo scivolone sulla strada della vanità, le ha irrimediabilmente chiuso le porte del tempio delle reginette italiane. E poi ci sono un sacco di no, no agli eccessi, a piercing e tatuaggi, a troppo cellulare, no a costumi assai sgambati, a vistosi ritocchi estetici, a lenti a contatto colorate, alle unghie lunghe e laccate e tacchi vertiginosi. La Miss Ideale dovrà invece leggere quotidiani e libri. L'ideale, dicono Anna Karenina e Madame Bovary, due storie tristi. Forse perché sfilando in passerella le Miss non sfoggino neanche un sorriso, troppo eccessivo. Oddio, Madame Bovary debba essere un esempio per le ragazze alla porta accanto, tutto può essere, ma esistenza di lussura repressa e di nemesi di sfigaggine terrificante, qualora abbia avuto possibilità di espressione. Marianna Aprile, buongiorno. Buongiorno. È giornalista del settimanale Oggi, definita la ragazza alla porta accanto del giornalismo italiano. Me lo sono inventato io questa mattina. Adesso mi retisci perché stavo per dire delle cose sulla ragazza alla porta accanto che ovviamente dovrò rivedere, essendo coinvolta in prima persona. Allora, no. Marianna, una lunga esperienza professionale nell'aver conosciuto, intervistato, avuto rapporti con ragazze alla porta accanto di tutti i tipi. Dai trans brasiliani dell'epoca Marrazzo, andando avanti a tutte le dive dello spettacolo, anche Miss Italia, ex Miss Italia, ieri ti ho visto contigua con l'attuale Miss Italia in un programma televisivo. Francesca Testa Secca, pensa un po', che ah, tutto si sarebbe detto, in realtà è diventata Miss Italia. No, ma in realtà credo che non lo mettesse in conto neanche lei prima di, come dire, di riuscire a entrare nella taglia 40, che si dica sulle evoluzioni del regolamento che quest'anno addirittura mettono la 44, poi bisognerebbe mettersi d'accordo su quale. Adesso, se Dio vuole, è lievemente più pingue, quindi non credo che sia più in quella taglia, ma almeno di due taglie superiori. Sì, comunque, a proposito della ragazza della porta accanto, cioè... E il discorso è, cioè, come ogni categorizzazione, né più né meno, e spero tu, questo mi dia manforte, un modo per ingalluzzire l'immaginario erotico, no? Cioè, l'immaginario erotico va per categorie. La ragazza alla porta accanto rischia di essere l'ennesima categoria da sognare, da infrangere. Come ci aveva detto il pompiere, che sognava, esatto, la ragazza dell'Azione Cattolica che aveva accanto. Anche perché, per definizione, fosse vero che queste sono ragazze alla porta accanto, cioè, a una ragazza alla porta accanto autentica, doc, cioè, non verrebbe mai in mente di mettersi in costume davanti a milioni di persone. Quindi Ramsete Mirigliani la sapeva lunga, capiva benissimo già da allora quali erano i vizi nascosti, i desideri nascosti degli italiani. Ma sì, anche perché per buttarla in caciara, come si dice, insomma, a Roma, cioè in città la ragazza della porta accanto tu non sai neanche chi sia, cioè le case sono dormitori. La ragazza della porta accanto esiste in provincia e la provincia da sempre è nell'immaginario collettivo un posto dove ci si concedono distrazioni e deviazioni dal binomio casa chiesa famiglia cattolica osservante, e la provincia dove proliferano nell'immaginario collettivo tutte le variazioni sul tema del sesso che ci possono venire in mente. Quindi è ancor più perverso e irreale, anacronistico oggi, discriminare la ragazza alla porta accanto fra queste poverette che già stanno lì e avranno dei problemi perché hanno fatto qualche foto in rete, come chiunque di noi ha foto in rete. Scusate, cioè, diciamo, parliamo di una generazione, perché insomma queste ragazze hanno tra i 16 e i book che arrivano al massimo a 26 anni, cioè una generazione di nativi digitali, di persone che esistono prevalentemente su Facebook e sui social network, in un momento in cui, anche se devo mettere la foto del profilo su Facebook e ricorrere al Photoshop, non posso partecipare a un concorso perché ho fatto una foto vagamente ammiccante, cioè su Facebook si vedono delle robe che... Cioè, poi anche lì bisognerebbe, come dire, rivedere il regolamento alla luce dei nuovi media, perché a questo punto, insomma, se la foto è pubblica allora vengo eliminata, se la foto è privata invece no. Cioè, addirittura qualcuno aveva avanzato l'ipotesi di ammettere ragazze, mantenere in concorso ragazze che avessero posato in disabilità, ammesso che la foto fosse artistica. Chi lo stabilisce? Ah beh, certo, come l'esempio fatto prima. Però secondo me esiste una ragione ancora più sottile su questo nuovo veto, che è una sorta di rincorsa incredibile e del tutto folle verso un modello inesistente per dare realtà, per dare credibilità, per dare ancora consistenza al grande meccanismo di affabulazione attorno all'aspetto esteriore rispettabile della società italiana. Ma questo ce lo dirà un amico fra qualche istante, dopo le informazioni dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Lady Dolores Lucrezia Borgia, mistress numero uno, la piazza di Roma. Ma che dico, nella piazza italiana? Giù, giù, striscia, cammina la cane. Qua, ti voglio qua, adora piedi, non mi fa fare brutta figura, alzati, testa bassa, in ginocchio, alzati, riabbassati, insomma, questi uomini non sono più quelli di una volta. Ecco, striscia. Questa sicuramente Madame Mirigliani non la prenderebbe nemmeno nelle selezioni di Miss Italia. Perché? Perché mostra in rete qualcosa che va oltre i limiti della decenza, altro che foto osè. Mi scrivono su Facebook che finalmente viene fuori cosa faccia la ragazza alla porta accanto, ma probabilmente tutti l'hanno sempre pensato e immaginato qualcosa di simile, quindi è forse ora di ridare dignità di totale e completa esistenza anche alla ragazza alla porta accanto. Vi faccio un piccolo esempio perché secondo me può essere utile per dare qualche dato rispetto a quella che viene considerata una deriva al di fuori delle regole dell'italiano medio. Il Censis proprio prima dell'estate fece un'indagine, uno studio chiamato la crescente sregolazione delle pulsioni, dove venne fuori che in media, vi riassumo i dati, gli italiani in massima percentuale ormai hanno imparato a destreggiarsi fra quella che è la morale esteriore, quello che è il convincimento religioso, quelli che sono i dettami della Chiesa cattolica per chi si professi credente, e quello che è il comportamento privato, dando al comportamento privato la dignità di essere oggetto dell'unico arbitro della persona che lo mette in pratica, cioè io solo posso decidere ciò che è bene e ciò che è male. Una volta che passa questo tipo di pensiero, che non esiste un ordine superiore di regole, che io posso comportarmi secondo i miei desideri, le mie pulsioni, le mie inclinazioni, e contaminandosi con un'infinità di sollecitazioni che uno magari nemmeno ha mai pensato nella vita, che è il continuo stimolo del social networking, della rete, è chiaro che l'italiano e soprattutto la ragazza alla porta accanto, che in questo momento stiamo cercando di finire, si mostri, cominci ad apparire, a trapelare diverso da quello che pensavamo. 800 24 00 24. Giuseppe Neri, buongiorno. Ciao Gianluca, buona giornata. Giuseppe Neri, amico, neuropsichiatra e presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Ti sei fatto un po' un'idea di quello che stiamo arrancando per definire la ragazza alla porta accanto? Ipocrita e inesistente definizione, come ci ha fatto capire l'amica Marianna Aprile già da quando fu coniata. Quando si parlava di ragazza della porta accanto, dice Marianna, si parla di qualcosa che non esisteva. In realtà si creava un fantasma dietro il quale nascondere tutte le allucinazioni erotiche degli italiani che oggi trapelano e vengono in superficie. Quando tu parli di allucinazioni erotiche già fotografi la situazione. In fondo quello di cui stiamo parlando oggi riporta a un concetto antico, cioè che il cervello, nella sua fisiologia e nella sua patologia, è il nostro primo organo sessuale, perché è da questo che poi parte, nelle sue forme anche di deviazione, una serie di modalità comportamentali. E la seconda cosa che mi viene in mente, con un riferimento se vuoi di archeologia, è che non ci siamo inventati nulla. 2600 anni fa, basta andare poco lontano da Roma, a Tarquinia, si vede la tomba della fustigazione, dove gli Etruschi probabilmente avevano già elaborato una modalità di relazione interpersonale che era parallela ed equiparata per alcuni aspetti a all'attività sessuale fra gli esemplari della specie sapiens molto prima che ci fossero tutte quelle manifestazioni più recenti che poi adesso con il linguaggio anglofilo che pervade tutto sono diventate bondage, discipline, dominance, submission. Il nucleo di questo è che noi facciamo sesso prima di tutto col cervello ed il cervello è capace di concepire e sviluppare non solo fantasie ma anche comportamenti estremamente differenziati e che con grossissimi rischi. Ecco, ma la delusione rispetto alla ragazza della porta accanto nasce proprio dal fatto che la contaminazione e la sollecitazione e diciamo il bagaglio culturale rispetto alle infinite possibilità di soddisfazione cerebrale poi porta qualcuno a provarci davvero, a entrare davvero in un affatto di esperienze. Io sono convinto che si continui a parlare erroneamente di sesso virtuale, di incontri virtuali, quando in realtà ormai in Italia la ragazza alla porta accanto ha capito come, dove e quando, ma l'hanno capito anche le sue mamme, le sue nonne, le sue zie e nonni, nipoti e parenti vari, che passare dal virtuale al concreto ormai non è più un passaggio così difficile. Beh, io mi porrei, forse andando un pochino oltre le righe, il dubbio se tutte quegli stuoli di mamme che abbiamo visto in questi anni proporre e accompagnare alcune giovani figliole ad iniziative di iniziazione che erano propedeutiche all'introduzione in ambiti qualificati con sviluppi di carriera, di denaro e di affermazione sociale, avrebbero o non contemplato fra le varie opzioni anche quelle di vedere la figlia coinvolta in attività di questo tipo, nel senso che l'ambiguità tipica del nostro paese cattolico fa sì che noi esibiamo ancora questi nostri principi fondamentali come se fosse brutto, zozzo, riprovevole un certo tipo di sesso, ma poi tutti dietro le mura di casa sappiamo benissimo come non siamo più nell'Italia né degli anni 50 né tantomeno dell'inizio del secolo. Antonella, sentiamo Antonella approfittando del fatto che abbiamo Beppe Neri in linea. Buongiorno. No, io avevo sentito adesso il signor Neri e sono d'accordo sul fatto che comunque c'è stato un alzamento di livello morale in senso lato che si è alzato, quindi quello che... No, cos'è che si è alzato? Non ho capito bene. Si è abbassato, vorrebbe dire. Il limite della depravazione, il limite dell'accettabile, il limite del possibile. Ma Antonella, secondo lei si è alzato il limite della depravazione o ciò che già esisteva è diventato trasparente, visibile? Senz'altro è diventato trasparente e comunque c'è stata un'accettazione a livello personale molto più alta. Voglio dire, secondo me mia nonna non aveva le pulsioni erotiche o i desideri erotici o le fantasie erotiche che posso avere io. Ma lei lo sa, stava nel letto di sua nonna? No, non l'ho come mai stata, fa a dirlo? Come fa? Lei pensa cosa penseranno di noi i nostri figli e i nostri nipoti? Penseranno, ah mai, mio padre e mia madre farebbero queste cose, tutti l'abbiamo pensato, nessuno vuole entrare assolutamente nell'idea che i genitori facciano cose, siamo d'accordo, però comunque la mia telefonata era in risposta al signor Massimo che ha chiamato prima, un limite c'è, non è vero che noi siamo persone normali, no, voi siete probabilmente nella media per tutto quanto, avete o state facendo una cosa che prevarica un po', secondo me, quello che... Normale forse non è il termine giusto, diciamo la regola, quello che si fa normale, ma lei cos'è, da che punto in poi comincerebbe a sentirsi depravata? Beh, quando un punto fisso non glielo so dire, però quando è una cosa che è talmente forte, talmente fuori dall'idea, poi sarò io che sono beghina, non lo so. Cioè, faccio degli esempi. Si farebbe delle corde in un garage a dei tubi. In un garage no, ma con delle manette, scusi, è normale. Antonella, ho capito. Cioè, la normalità per me non è quella. Sì, ma le voglio fare un esempio. Posso anche decidere di farlo io, ma so che sto facendo una cosa che è un po' oltre quello che è il mio limite morale. Ma qual è il livello un po' oltre? La manetta rivestita di peluche rosa a casa propria sarebbe ammessa? Secondo me sì, cioè a casa propria, al di là del discorso adesso generalizzato che c'è un livello politico, un livello personale, un livello pubblico, secondo me non dobbiamo accettare tutto dicendo ah ma è normale, quella è lui che fa quello che gli quindi pare, è solo la gradualità, diciamo, scusi è libero ma nei limiti. Sì, Antonella, la devo lasciare perché adesso devo dare la linea al traffico. Dicevo, mi sembra aver capito che soltanto la gradualità dell'estremizzazione, lei non dovrebbe nulla di strano a farsi ammalare manettare con la manetta di peluche rosa nel suo talamo coniugale, secondo lei la depravazione inizia andando a fare in un garage e attaccandosi per il collo. 800 24 00 24, Beppe Neri risponderà tra un istante dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. La più bella del reame, recita il regolamento, mai deve essere stata ritratta in pose di nudo e comunque sconvenienti. Il bon ton si applica severo alle curve esposte. Dopo Alice Bellotto, fuori ora anche Raffaella Modugno. La colpa, eccesso di vanità, scatti di scinti scovati nel web. Se è vero come è vero che per le top vale la regola dello scatto d'autore, una modesta proposta ai signori organizzatori quasi si impone. Applicatela pure alle giovani promesse. Il regolamento non ne soffrirà, lo spettacolo neppure. (Ride) 800 24 0024, ci stiamo destreggiando nel fantasma allucinatorio sempre più evanescente della ragazza alla porta accanto tra Miss e Mistress. Giulia, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno agli ascoltatori. No, non Giulia buongiorno, noto avvocato, ma Giulia buongiorno in quanto giornalista che ci racconta il meccanismo, perché l'ha vissuto di persona, per cui la Miss Italia, che come diciamo Marianna Aprile lecitamente mette in internet come ogni ragazza dai 9 ai 90 anni le proprie foto, comprese gli scatti magari lievemente déshabillé, e che ha determinato la sua espulsione dal grande concorso. Cosa è accaduto? Allora, l'espulsione di Alice Bellotto, questa bella bassanese che era arrivata... È colpa tua. È colpa mia, perché come internet funziona come tutti i normali giornali, quindi più si mostra e più click si fanno, quindi io per presentare questa nostra Miss, bellissima ragazza, tra l'altro anche molto intelligente e simpatica, avevo scelto delle foto che erano su un sito di una rivista maschile in cui avevo una scollatura particolarmente provocante, infatti l'articolo è andato benissimo. E fatto sta che una mamma, no, perché con il discorso comunque della ragazza della porta accanto, e lo accennavi tu prima, c'entrano molto anche le mamme, ha inviato la vista. Ah, quindi una mamma ha fatto la spia, una mamma infame ha visto la stettata concorrente? Ma pensate, ma quindi tutto nasce dalla delazione di una madre? Pare di sì, tanto che Alice Bellotto addirittura ha avviato un'indagine della polizia postale, perché ovviamente la mail era anonima, la signora però insomma si presentava descrivendosi come particolarmente acculturata e dite: guardate questo articolo che sembra un articolo normale, ma se guardate le foto guardate che di schifo più. La concorrente mia figlia. È stato molto utile quello che ci hai detto, adesso i miei due ospiti commenteranno. Grazie Giulia. Dania, buongiorno. Buongiorno Luca. Allora, la ragazza della porta accanto e non, secondo me una cosa non esclude l'altra. Io ti faccio l'esempio personale. Io sono sempre stata considerata la ragazza della porta accanto. Sono cresciuta in un paesino piccolo di 350 abitanti, dove tutti sanno tutto di tutti. Ho seguito un iter tranquillo, studi regolari, catechista, organizzavo giochi all'oratorio. Perfetta ragazza. Mi fermavano le persone per strada e mi dicevano: che ragazza, i tuoi genitori saranno fieri di te. Beata chi la sposa. Sì, no, poi mi sono separata, quindi non è stato beato. Nella mia privacy... Beh no, può essere invece... adesso sia beatissimo, dipende dal punto di vista. Sì, forse era sì. Nella mia privacy, invece, in quello che non appariva agli occhi degli altri, sono stata un po' meno ragazza della porta accanto. Che senso? Praticavi perversioni estreme? No, ma le mie fantasie davo... Davi libero, libera... Le alimentavo. Le alimentavi o le mettevi in atto? Anche in atto, alimentare... Vabbè, fammi un esempio di... Visto che rispondi così all'ascoltatrice, tua collega, che diceva: qual è il limite della depravazione? Qual è la cosa più depravata che ti senti di aver fatto? Secondo me non c'è un limite. Quando c'è, quando uno è d'accordo nel fare qualcosa, non c'è un limite. Vabbè, adesso, visto che siamo in un terreno propizio, cosa consideri la cosa più innominabile che tu abbia fatto rispetto all'immagine di brava ragazza? Ti sei fatta sculacciare? Non so, mi viene in mente cose del genere. Come faccio a dirla alla radio? Vabbè, con metafore, non so, così capiamo. Finalmente la ragazza, abbiamo un esempio di ragazza alla porta accanto con tutte le sue caratteristiche. Il bondage, no, ha limiti di rimanere strozzata a un tubo, però mi piace. Qualche legatina ti dà gusto? Pronto? Sì, mi senti? Sì, no, sto capendo. Capisci l'importanza della testimonianza? Qui abbiamo una ragazza della porta accanto, catechista, sempre indicata come esempio, dice che nel suo privato, questo smitizzando il fatto... Sono uscita da schemi tradizionali. senza però sentirmi io stessa non in regola o meno ragazza della porta accanto. Va bene, ma mi sembra, guarda, cosa mia, capito? Non voglio andare, perfetto, ognuno a casa sua si fa legare quanto gli pare, come gli pare, da chi gli pare, con le corde che gli pare, con i nodi che gli pare, per il tutto tempo che gli pare, e poi normalmente può con pieno orgoglio dire: io comunque sono una ragazza alla porta accanto. Grazie Dania. Beppe Neri. Beh, mi piace tanto questo shiftare continuamente fra il salamare e i mariti, come dici tu, e poi passare a questo tipo di discorsi. Quello vabbè, l'inzaccato mente deve essere reciproco, se no che coppia. No, assolutamente, è così che prevedono le regole, ho cercato di aggiornarmi, però la ragazza che ha appena chiamato secondo me metteva a fuoco una cosa che bisogna avere presente, cioè esistono in questo mondo, che è un mondo diffuso, è un mondo molto più ampio di quello che noi possiamo immaginare, delle regole. E allora gli inglesi dicono sane, safe and consensual, in cui sano vuol dire salvaguardare l'integrità fisica e psicologica del partner e di chi partecipa a questa attività, safe vuol dire che c'è una parola d'ordine per cui lì deve essere saltato qualcosa, perché quando si fanno queste cose di solito c'è sempre, c'è la possibilità di dire una parola con cui si blocca tutto, in questo caso si tagliano le corde, è fondamentale, consensuale e fra adulti. Non è un caso, secondo me, che questo signore pare che abbia ripetuto come un mantra, dopo essere stato arrestato, che la situazione in cui c'erano svolti i fatti che avevano portato alla morte di questa ragazza, lui la descriveva come una situazione fra adulti e consensuale. Lì il problema è che, mi hanno detto esperti che ho intervistato questi giorni, hanno fatto l'unica cosa che non andrebbe mai fatta in questi casi, erano fatti di hashish e ubriachi, bisogna avere la massima lucidità. Marianna Aprile, rispetto alla delazione della mamma, è un elemento di valutazione in più rispetto alla tua esperienza? Beh, assolutamente, ahimè, una costante, cioè la delazione della mamma si inserisce in tutto quel campionario di mamme alla bellissima che hanno, come dire, cesellato i giornali e le televisioni di questi anni, cioè la mamma che fa la delatrice, magari poi scopriremo che è la mamma di un'altra aspirante miss, niente, sicuramente, di più facile, certo. Cioè, dimostra ancora una volta, facendo, diciamo, prendendo a puntello anche l'indagine del Censis che citavi prima e la testimonianza dell'ascoltatrice che ha appena chiamato, dimostra ancora una volta che i concorsi come Miss Italia sono delle fabbriche di infelici, prima fra tutti le mamme, perché almeno le ragazze il loro quarto d'ora di visibilità e di notorietà ce l'hanno, e poi le ragazze medesime che si sentono messe sotto esame prima ancora per il loro aspetto fisico, per la loro condotta, cosa che in nessun altro caso, prima fra tutti la politica, avviene, cioè perché deve avvenire a Miss Italia? E allora, se è un concorso di bellezza, che sia e rimanga solo un concorso di bellezza, si voti la più bella indipendentemente da quello che sta in camera da letto, cioè. Grazie Marianna Aprile, grazie Beppe Neri, spero che questa mattina abbiamo contribuito fortemente a demolirvi nel vostro immaginario residuo la figura inesistente della ragazza dalla porta accanto. A domani. Alors,